Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Omicidio a Gorizia, un uomo è stato trovato agonizzante nel garage di casa, sul corpo i segni di un violento pestaggio, talmente gravi le ferite che è spirato prima del ricovero in ospedale. Ha divorato 350 ettari di bosco l'incendio che ieri è divampato sul Carso sloveno non lontano da Gorizia. Le fiamme sono ora sotto controllo. Nelle operazioni di spegnimento coinvolti anche due elicotteri della nostra protezione civile e un Canadair croato. Vertenza Varsila, continua il presidio dei lavoratori davanti ai cancelli, mentre oggi è previsto un incontro tra il governatore Fedriga e i sindacati. Andamento dei contagi ancora in crescita in Friuli Venezia Giulia, mentre a livello nazionale sembra essere stato raggiunto il picco. Continuano i nostri servizi sui nostri amici animali, al centro di recupero fauna selvatica di Fontanafredda e all'associazione OIPA di Udine. Si chiama Mirabilia il nuovo spazio espositivo al Museo Archeologico di Aquileia, reperti classici a confronto con preziosi oggetti concessi in prestito da istituti nazionali. Alle 7:19:20 di lunedì 18 luglio, un cordiale buongiorno da Anna Daccioc e Armando Mucchino, voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Come di consueto la pagina del tempo in apertura, cielo sereno su gran parte della regione, le temperature registrate alle 6. Trieste 24 gradi, mare mosso con temperatura di 24 gradi e 5 decimi, Udine 24 gradi, Gorizia 21 gradi e 5 decimi, Pordenone 21, Tolmezzo 19 gradi, Forni di Sopra 15 gradi e mezzo, Piancavallo 13, Sappada 12, Tarvisio 11 gradi e 5 decimi, in quota sul Monte Zoncolan 13 gradi e 5 decimi e sul Lussari 10, tornando sulla costa Lignano 25 gradi e 5 decimi, grado 24 con temperatura del mare a 25 gradi. Le previsioni dell'ARPA, oggi cielo in prevalenza sereno sui monti, al pomeriggio poco nuvoloso con bassa probabilità di qualche locale rovescio temporale sui settori più interni, specie verso il Cadore e il Comelico. Sulla costa soffierà bora moderata al mattino, venti di brezza anche sostenuti al pomeriggio. In apertura l'avete sentito dai titoli la notizia di un omicidio avvenuto a Gorizia ieri nella tarda serata. Un uomo di 50 anni, di cui non sono state rese note ancora le generalità, è stato trovato agonizzante nel suo garage in via Faiti, in centro, a Gorizia, poco prima di mezzanotte. A trovarlo il personale sanitario del 112, le sue condizioni erano talmente gravi che è deceduto prima di essere trasportato in ospedale. Sul corpo gli agenti della questura, che stanno facendo le indagini, hanno trovato segni di calci e pugni e ferite dovute a un corpo contundente appuntito. Le notizie sono ancora frammentarie, ma pare che il violento pestaggio sia avvenuto alcune ore prima dell'intervento del 112 e non è ancora chiaro chi abbia chiamato i soccorsi, se l'assassino, la vittima o qualche testimone. Le primissime indagini della polizia intanto stanno battendo la pista del regolamento dei conti, forse legato a un giro di stupefacenti. È un incendio di sterpaglie divampato ieri sera poco dopo le 22 in via Stella a Rivignano. Ci è voluto un'ora di lavoro per i vigili del fuoco di Codoro e Pella Tisana per aver ragione delle fiamme che stavano avvicinandosi ad alcune abitazioni. Sul posto anche i carabinieri per capire quali possono essere state le cause del rogo. Ancora il caso Wärtsilä, la multinazionale finlandese che nei giorni scorsi ha annunciato la chiusura delle linee produttive nello stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Oggi cominceranno gli incontri della regione, prima con i sindacati e poi con l'azienda. La speranza è di un ripensamento da parte della multinazionale, a cui viene chiesta innanzitutto chiarezza. Il primo incontro su Wärtsilä si terrà già oggi. Nel palazzo della giunta regionale sono attesi i sindacati che si confronteranno con il presidente Massimiliano Fedriga, gli assessori al lavoro e attività produttive Alessia Rosolen e Sergio Bini. Insieme metteranno a punto la strategia di contrasto alla chiusura della produzione del sito di Trieste con un'attenzione particolare all'indotto, con cui il conto dei posti di lavoro tagliati salirebbe a 800. Il tempo c'è, la procedura prevista dall'ultima legge di bilancio prevede che prima di 3 mesi non si possano avviare licenziamenti. Martedì sono invitati al tavolo regionale Confindustria e azienda. La speranza è che Wärtsilä ci ripensi. C'è un punto della comunicazione di avvio della procedura arrivata alle parti mercoledì che lascia aperto qualche spiraglio. Il gruppo sta esaminando la possibilità di futuri investimenti a Trieste legati allo sviluppo di tecnologie relative ai carburanti verdi, si legge. All'azienda sarà chiesto di fare quella chiarezza che finora è mancata. Ne hanno pagato le conseguenze anche i due operai assunti dal 1 luglio in produzione. Un terzo era stato selezionato per ottobre. Per accettare questo lavoro avevano lasciato il proprio, salvo trovarsi subito disoccupati. Ma cosa fare se l'azienda confermerà i suoi propositi di chiusura? Per i sindacalisti va trovata una soluzione alternativa coinvolgendo, se necessario, cassa depositi e prestiti. Mauro Masci, FIMCISL. Si dovranno trovare tutte le condizioni perché il sito venga riconvertito, che qualcuno venga a portare produzione, qualcuno possa provare a fare la stessa produzione in quel posto. Anche questa strada non è priva di ostacoli, perché il capannone è di Wärtsilä e non è detto che i finlandesi vogliano venderlo per lasciare la produzione a un potenziale concorrente. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio di ieri gli uomini del soccorso alpino di Forni di Sopra hanno portato in salvo 3 giovani, 2 ragazze e un ragazzo di Udine Latisana, tra i 26 e i 28 anni di età. I 3, scendendo da Forcella Lavinal, si sono trovati in difficoltà lungo un tratto di sentiero. Dovevano superare un tratto di ghiaione franato dopo il maltempo e non se la sono sentita perché il terreno era molto indurito e ripido. I soccorritori li hanno raggiunti a piedi, hanno intagliato con le piccozze dei gradini e hanno teso una corda fissa affinché i ragazzi potessero aiutare anche con le mani nel traversare quel tratto di circa 20 metri. E un uomo di Lauco è stato colto da malore mentre percorreva il sentiero che scende nella forra del Vinadia. Era assieme ad un compagno di escursione quando si è sentito male. Assieme hanno tentato di risalire il sentiero, ma invano, e così il compagno di escursione è risalito da solo fino in paese per chiedere aiuto. Sul posto 2 tecnici del soccorso alpino, tra cui un medico, raggiunti poco dopo da altri soccorritori, dalla Guardia di Finanza e dai Vigili del Fuoco. Poi è arrivato l'elisoccorso, che ha sbarcato con il vericello l'equipe sanitaria. L'uomo è stato imbarellato e recuperato a bordo con una vericellata di più di 80 metri. Terzo intervento in favore di un escursionista di 75 anni di Moggio Udinese che ha avuto un malore nella tarda mattinata di ieri sul sentiero per il rifugio Grauzaria. 6 tecnici della stazione di Moggio intervenuti. A chiamare il 112 è stato un gruppo di giovani. L'uomo, che respirava e il cui battito cardiaco era presente, è stato condotto a valle e consegnato ai sanitari dell'ambulanza. Hanno preso parte ai soccorsi anche la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Siglato l'accordo quadro tra l'esercito, precisamente con la Brigata Alpina Giulia che opera attraverso le squadre di soccorso alpino militare, e i servizi regionali di Friuli Venezia Giulia e Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Il documento ha lo scopo di disciplinare nel dettaglio il rapporto reciproco di collaborazione, avrà una durata di 4 anni, di cui 2 sperimentali, e il fine di trovare una cooperazione in cui ci sia scambio di conoscenze per la formazione del personale, per esperienze e competenze affini e per ottimizzare le risorse. Siamo ai dati della pandemia. Continuano a crescere i casi di infezione da coronavirus in Friuli Venezia Giulia, a differenza di quanto avviene nel resto del territorio nazionale, dove la fase di picco sembra ormai superata. I nuovi positivi rilevati ieri dal bollettino della regione sono 1.397, oltre 200 in più rispetto a domenica scorsa. L'incidenza sale a 1.149 nuovi casi per 100.000 abitanti in una settimana. Il tasso di positività è al 23,31% su 5.993 tamponi analizzati. Aumenta ancora il numero di pazienti positivi al coronavirus negli ospedali. Ce n'erano 2 in più in terapia intensiva per un totale di 6, mentre arrivava a 272 quello degli altri reparti. Un dato cresciuto di 12 unità in un solo giorno e di 94 in una settimana. Va precisato che la stragrande maggioranza dei ricoverati è in ospedale per altre patologie ed è risultata positiva al tampone solo al momento del ricovero. Ieri si sono registrati 3 nuovi decessi. Disagi e cancellazioni di voli, ieri anche all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, per 4 ore di sciopero indette dall'ENAF e da piloti, assistenti e controllori di volo e il personale di alcune compagnie low cost. Sono stati cancellati i voli diretti a Francoforte, Bruxelles, Napoli e Malta. Per limitare i disagi c'è stata una riprogrammazione dei posti su altri voli. La cooperativa sociale Itaca, con base a Pordenone, apre uno sportello a Gorizia per aiutare le famiglie che cercano assistenza domiciliare per i propri anziani. Sentiamo. Mettere in relazione persone che hanno bisogno di un aiuto con chi l'aiuto lo può offrire è l'obiettivo di Lavoro e Cura, un nuovo ufficio aperto in Viale 24 Maggio a Gorizia dalla cooperativa sociale Itaca grazie ad un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio. Si tratta di un progetto di selezione ed inclusione di assistenti familiari. Maria Marzullo, referente Itaca. Spesso ci chiedono un H24, ma poi ci rendiamo conto che l'H24 non è sempre possibile quando magari una persona, un anziano, si sveglia di notte. E quindi insieme alla famiglia programmiamo e ci prendiamo cura del progetto assistenziale, lo integriamo nella specificità e magari si rende utile la presenza di due persone, una che possa restare di giorno e l'altra di notte. Nel tempo viene offerto anche un percorso di monitoraggio. Talvolta ci accade anche che il percorso assistenziale di cura vada rivisto, vada integrato, perché ovviamente possono cambiare anche le esigenze dell'anziano. Itaca, cooperativa sociale di Pordenone, compie quest'anno 30 anni esatti, oltre 2.000 i soci in tutto il Triveneto, e nel tempo le persone che scelgono di lavorare nei servizi alla persona sono cambiate. Oggi ci sono anche tanti italiani. Lo fanno perché molto spesso il lavoro iniziale è venuto a mancare, ma non ci si può improvvisare. È per questo che noi interveniamo con un adeguato programma di formazione, in modo anche da permettere alle persone di affacciarsi ai diversi carichi assistenziali. Gorizia, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Migranti afghani e pakistani che vengono medicati e rifocillati in Piazza della Libertà di fronte alla stazione di Trieste sono stati multati. Ne abbiamo chiesto le ragioni al comandante della polizia locale Walter Milocchi e anche al presidente di CS, Ufficio dei Rifugiati, Gianfranco Schiavone. Multarli sembra quasi un accanimento contro queste persone che sono in attesa di sapere se possono o no avere l'asilo politico. Diciamo che comunque una quota che si trova di giornalmente punto di ritrovo, non è che sono tutti ancora in attesa di essere inseriti nei programmi di protezione in attesa del riconoscimento. Una quota di quelli che frequentano Piazza Libertà hanno la sistemazione, hanno l'alloggio, però durante il giorno magari si ritrovano in Piazza Libertà, che è anche un punto di ritrovo per loro. Okay, quindi le multe sono state fatte a questi? Dei verbali fatti, una quota abbastanza consistente, credo che almeno la metà sono persone che hanno la sistemazione in attesa del tutto l'iter burocratico per il riconoscimento della protezione internazionale. Quindi semplicemente si ritrovano lì, stanno lì, c'è chi lo fa in maniera diciamo adeguata, in piedi o seduti, eccetera, chi è stato sanzionato è colui che era steso al suolo o sulle panchine a dormicchiare, però sono venute durante il giorno. Questa è la replica di Gianfranco Schiavone, presidente di ICS, Ufficio per il Rifugiato. Affermare che qualunque forma diciamo di bivacco va multata perché il comportamento è uguale, in realtà è giuridicamente una sciocchezza, perché esiste la cosiddetta scriminante da stato di necessità. E cioè una cosa è bivaccare per spregio, per diletto, per goliardia, e un'altra cosa è farla perché una persona non ha goduto dell'accoglienza a cui pure aveva diritto e si trova in quella condizione. Questa è la ragione per cui, ripeto, tecnicamente parlando, le multe sono illegittime e francamente il comportamento del pubblico ufficiale che eleva la contravvenzione è veramente condannabile, perché lui è tenuto a valutare la concreta situazione nella quale le persone si trovano e appunto è a vedere quello che chiunque vede senza bisogno di grandi approfondimenti, cioè che c'è uno stato di necessità. Quello che è avvenuto in queste settimane è la mancanza di posti di accoglienza per coloro che hanno presentato domanda di asilo e hanno diritto, ripeto, a essere accolti. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Ha preso il via ieri sera il festival Diverso da chi, un progetto del comune di Resia. Questa mattina alle 9.30 al Centro Culturale di Prato di Resia il convegno Una Nuova Casa Accogliente, per capire come funziona la protezione delle persone vulnerabili in Italia, nella nostra regione, e le opportunità di crescita del territorio. Ospite anche l'associazione Linea d'Ombra, che assiste con cibo e medicazioni di primo intervento ai migranti in arrivo a Trieste dalla rotta balcanica. Gli appuntamenti vanno avanti fino a domenica. Gemellaggio tra il gruppo Alpine e l'Associazione Nazionale Fanti d'Arresto, l'ANFA, ha costituito la novità del 26esimo incontro alpino della Val Sizera. La cerimonia nel cimitero austro-ungarico, dove sono sepolti i militari di entrambe le fazioni che morirono durante la Prima Guerra Mondiale. Con il gemellaggio, in occasione dei 60 anni della fondazione dei reparti dei Fanti d'Arresto, nati sulle ceneri dei raggruppamenti d'arresto, abbiamo definitivamente messo da parte il campanilismo che c'era tra noi, hanno sottolineato i rappresentanti degli alpini e dell'ANFA. Idee, progetti e soluzioni per una nuova stagione di rinascita del territorio friulano e del suo popolo. È ricco il bilancio dei primi 4 anni di Cantiere Friuli, il progetto avviato nel 2017 dall'Università di Udine con il coinvolgimento delle realtà locali. I risultati ottenuti nella prima fase 2017-2021 e le prospettive future 2022-2025 saranno presentati oggi alle 10.30 all'Auditorium Sgorlon del Polo Umanistico e della Formazione di Via Margaret 3. Dalle proposte per la rigenerazione di Borgo Grazzano al protocollo d'intesa per lo sviluppo di Udine come città universitaria, dalle indagini sulla propensione all'espatrio dei laureandi e sui settori imprenditoriali emergenti al supporto normativo alle decisioni strategiche degli enti pubblici. Tra i principali risultati, poi in chiave di sostenibilità, anche l'attivazione di un portale per il riuso delle attrezzature dismesse dall'Ateneo. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Zanier, ha approvato lo schema di accordo di collaborazione per la partecipazione per l'anno 2022 alle attività di promozione delle Dolomiti friulane nell'area pordenonese ed inserite nella manifestazione Dolomiti Days. La Regione, attraverso il servizio Biodiversità che coordina le attività in materia di Dolomiti UNESCO, ha già in atto un accordo di collaborazione con la comunità di montagna della Carnia per la promozione delle Dolomiti friulane nell'area udinese. Altre attività verranno svolte anche nei comuni pordenonesi interessati dal riconoscimento UNESCO con l'obiettivo della conservazione e valorizzazione del bene Dolomiti. Per la realizzazione del progetto è prevista una spesa complessiva di 30.000 euro corrisposti dal servizio biodiversità alla comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio. Alle 7.36 e 40 secondi voltiamo pagina per parlare dei nostri amici animali. Sono tanti gli abbandoni di cani in Friuli, molti sotto forma di ricusazione, rifiuti che spesso non hanno una giustificazione come richiesto dalla legge regionale. L'incremento dei numeri soprattutto durante la pandemia, come spiega Edoardo Valentini dell'associazione OIPA di Udine. Esiste un po' come da tutte le parti, certamente con numeri minori in confronto ad altre parti d'Italia per fortuna, esiste sotto un'altra formula che è quella della ricusazione, ossia il rifiuto di proseguire nel rapporto col proprio animale da parte di tante famiglie per svariati motivi, alcuni seri e comprovati come la legge dice, l'articolo 5 della legge regionale 2012, altri a volte molto più futili. Questo è un fenomeno che purtroppo colpisce tantissimo anche dopo il periodo del Covid e dopo il periodo del lockdown, anche questo è stato un incremento nei numeri. Parliamo allora di numeri, nell'ultimo anno, nel 2021, quanti cani sono stati ricusati? Allora, nel tutto il 2021 sono stati 170 i cani ricoverati presso le strutture convenzionate. Ovviamente poi ci sono strutture come questa e come altre che esistono di supporto e poi ci sono gli stalli. Quindi il numero di 170 è sicuramente il numero base, dalle quali penso che un altro 50-60 si possono aggiungere tranquillamente. Poi purtroppo ci sono quelli che sono spariti e non sono stati ritrovati, quelli che per fortuna da una casa sono entrati da un'altra parte grazie al circuito delle adozioni, dove volontari di varie associazioni, noi altri, cerchiamo di dare subito una nuova famiglia, una nuova sistemazione, una nuova vita. Parliamo di fauna selvatica. A Fontana Fredda è attivo il centro di recupero per gli animali selvatici. Il centro ha visto aumentare di anno in anno il numero degli interventi. Ci sono cuccioli di cervo e di capriolo che sono stati predati dalle volpi o coinvolti in incidenti stradali, rapaci feriti e tanti altri animali amorevolmente curati, quando possibile liberati oppure ospitati in un'area verde di 35.000 metri quadrati grazie alla passione ed dedizione di Walter Bergamo, che con il figlio Michael gestisce il centro di recupero fauna selvatica di Fontana Fredda per conto della regione Friuli Venezia Giulia. Siamo partiti dal 2016-2017, circa si facevano 300-350 interventi. Siamo arrivati a una relazione 2021, praticamente fra interventi diretti che abbiamo fatto noi e fra animali che hanno portato la gente al centro recupero, abbiamo fatto 1200 interventi. Per fortuna la fauna selvatica è aumentata negli anni. Caprioli e cervi sono aumentati e abbiamo il problema adesso grosso anche dei cinghiali. Poi abbiamo adesso che tanta gente va a passeggio in montagna e quindi anche lì tutto quello che si vede, che si muove, la gente vede, si preoccupa e chiama il centro recupero. Il servizio è disponibile 24 ore al giorno con un numero dedicato chiamando il 112. A fare divulgazione sulla fauna selvatica locale e sui comportamenti corretti ci pensa anche un'associazione di giovani volontari che gestisce le visite guidate al centro. Luca Della Schiava, dell'associazione Nature Vibes. Prendiamo l'associazione del territorio, le famiglie che vogliono conoscere qualcosa in più del loro territorio, della fauna selvatica presente, e diamo delle chicche, delle perle di semplicità per capire come comportarsi ogni giorno al fine di rispettare l'ambiente e l'ecosistema in cui siamo inseriti. Un esempio semplice è non toccare i cuccioli di daino e di capriolo quando andate a fare le passeggiate in montagna. Se li toccate vengono abbandonati dalla mamma e di conseguenza sono forzati a venire qua. Fontana Fredda, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'Udinese nel segno di Nestorowski vince 3-0 con gli sloveni dell'Illiria Lubiana nell'amichevole giocata all'Lienz. Solo nel secondo tempo la squadra di Sottil trova il gol, ancora protagonista l'attaccante macedone, già autore di una doppietta nel 3-3 contro l'Union Berlino. Nestorowski, entrato per success dopo l'intervallo, ci mette poco più di due minuti a segnare. Palla recuperata sulla tre quarti, corsa fino al limite e rasoiata Mancina che bacia la base del palo ed entra in porta per l'1-0. Nestorowski a un quarto d'ora dalla fine trasforma un altro pallone nel cuore dell'area dell'Illiria. Il macedone controlla e piazza la doppietta. Poi all'87 Wallace intercetta un passaggio pigro dell'Illiria, serve in profondità Battistella che vede Nestorowski in area, che riceve palla e col destro segna il quinto gol in due giorni, il sesto in tre amichevoli. Lutto in casa udinese che esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Marino Mariottini, storico direttore sportivo bianconero tra il 1988 e il 1993, periodo nel quale guidò la risalita in Serie A della squadra friulana, scoprendo anche un talento come Abel Balbo. Una maratona ai confini del cielo con due protagonisti assoluti, Alessio Milani, Atletica Monfalconese, e Fabiola Giudici dell'Atletica 2000, che hanno vinto, come da pronostico, la prova sui 42 km della Panoramica delle Malghe, manifestazione di trail running andata in scena per la seconda volta ieri sui sentieri e le strade sterrate di Piancavallo, con partenza e arrivo dall'area sportiva Ronchiade. Circa 550 partecipanti, runners, ma anche semplici camminatori, che si sono divisi tra i cinque percorsi di 42, 30, 21, 10 e 5 chilometri disegnati dall'Atletica Aviano nel cuore dell'Altopiano, con suggestivi paesaggi in quota e splendide vedute sulla pianura. Parliamo ora di archeologia. La lampada del tesoro della Basilica di San Marco a Venezia è il primo dei reperti ospiti del progetto Mirabilia, capolavori a confronto. Nel servizio l'intervista alla direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, Marta Novello. La lampada del tesoro della Basilica di San Marco a Venezia è il primo dei reperti ospiti del progetto Mirabilia, capolavori a confronto. Si compone di due parti realizzate in epoche diverse: la coppa del IV secolo d.C. in cristallo di rocca, pregiatissima varietà del quarzo, e il bordo in argento dorato, stimabile tra il X e il XII secolo, con 8 basi per le candele. Il progetto Mirabilia si sviluppa in un arco di tempo di diversi anni, grazie alla collaborazione dei più importanti musei del Mediterraneo. Attraverso i reperti che ospiteremo via via nel corso del tempo, attiveremo un dialogo, un confronto con la collezione del museo e tratteremo tematiche che spaziano dalla produzione di lusso di età romana, oltre al cristallo di rocca anche lavoreremo sulla produzione e la lavorazione delle pietre dure, all'oreficeria di età ellenistica, le tecniche di lavorazione del vetro più raffinate, alle immagini utilizzate nella loro decorazione, portando ad Aquileia oggetti di grandissima rarità. ad arricchire le opzioni di visita del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia la nuova applicazione per smartphone e tablet, che include una sezione dedicata al percorso tattile per i non vedenti. L'applicazione consente di personalizzare dei percorsi tematici guidati sui tre piani della Villa Museo. Si potrà scegliere tra gli oggetti più importanti della collezione, di cui sono forniti approfondimenti e chiavi di lettura diversificate. Sarà così possibile a tutti usufruire dell'esperienza di visita del museo tramite il proprio dispositivo mobile. Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Ultimi appuntamenti per il Piccolo Opera Festival in Piazza della Transalpina a Gorizia. Abbiamo chiesto al direttore degli appuntamenti, Gabriele Ribis, baritono di Cividale, direttore di prestigiosi festival d'opera anche all'estero, di tracciare un bilancio complessivo di questa 15ª edizione. La scelta innanzitutto di Piazza Transalpina ha un significato particolare, che è l'apertura del nostro progetto d'opera verso Nova Gorizia e Gorizia 2025. Anche l'opera contemporanea piace se presentata in maniera spiritosa, in un luogo interessante, in un luogo che rappresenta un punto di unione per la cultura. Questa era l'ultima serata del festival. Qual è il suo bilancio complessivo di questa edizione, quindi come partecipazione di pubblico, partecipazione da parte degli artisti? Sicuramente molto bene, forse la nostra migliore edizione, la 15ª. Sempre c'è stato pubblico anche agli eventi più piccoli, che chiaramente hanno anche meno visibilità mediatica. Questo vuol dire che il festival rimane sempre nell'attenzione del pubblico, che vuole partecipare anche agli eventi minori. Per l'opera in particolare è andata molto bene, un migliaio di persone ha assistito a Madame Butterfly, al nuovo teatro di Verzura del Castello di Spessa, che è sicuramente il progetto più importante di questa edizione. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Vediamo i principali temi trattati dai giornali. 600 lavoratori in pericolo nell'indotto della Wärtsilä e l'apertura del Piccolo di Trieste, che illustra nelle pagine interne l'effetto domino della chiusura della produzione della multinazionale che coinvolge decine di imprese. Al centro pagina la foto di marito e moglie di 40 e 45 anni, entrambi lavorano alla Wärtsilä, ora si sentono persi, dicono, e hanno due figli di 5 e 10 anni. All'interno del giornale anche un'intervista al manager Innocenzo Cipolletta, che sostiene che quella della Wärtsilä non è una fuga ma una scelta industriale. Tuttavia l'ex direttore di Confindustria Italia non vede scelte politiche legate al rischio Italia. Nel giornale anche il rischio siccità e la rassicurazione di Acegas APS: non ci sono rischi per l'erogazione, sarà regolare, i punti di captazione della multiservizi sono a circa 200 metri di profondità nei pressi di San Pier di Sonzo, una profondità tale che non presenta ancora criticità. La fotonotizia di centropagina del Messaggero Veneto oggi in edicola ritrae l'imbarcazione X River che a Lignano e Bibbioni i giorni scorsi è stata fondamentale per portare in salvo una dozzina di bagnanti messi in pericolo dall'incendio divampato in pineta. Sopra il titolo principale di apertura sullo sciopero che ieri a Ronchi dei Legionari ha visto cancellare 4 voli creando non pochi disagi. 2 richiami di cronaca in un colonnino a destra, in alto dopo l'uscita di strada l'auto si incendia, intossicato un 29enne, notizia che si riferisce ad un fatto accaduto nella notte tra sabato e domenica in comune di Ruda. Sotto la notizia di un malore durante una festa in piscina a Gonars sono gravi le condizioni di un 24enne. In taglio alto una nuova vittoria nel campionato del mondo di mountain bike per Luca Braidot e a piedi pagina il conto alla rovescia a Pordenone per il concerto che vedrà assieme sul palco Jeff Beck e Johnny Depp. La prima pagina dell'inserto del Gazzettino invece in evidenza i test fai da te per evitare quarantenne Covid. In farmacia le vendite dei tamponi rapidi hanno avuto un'impennata del 30% nelle ultime settimane. C'è anche la notizia che la regione ha istituito un'unità di crisi per i pericoli della peste suina africana. L'apertura del piccolo di Gorizia è la foto della colonna di fumo che si levava ieri dal Carso Sloveno, ben visibile da tutto l'Isontino, con il titolo Nuovo incendio, paura per il Carso. Al centro pagina la notizia dell'omicidio, pestato a sangue nel garage di casa sua, morto un cinquantenne, omicidio in via dei Faiti, nessuna traccia dell'aggressore. Si sospetta un regolamento di conti per storie di droga. E sempre in prima pagina del piccolo di Gorizia un altro fatto che ha sconvolto la città, la morte del 55enne Marco Mlakar in Alto Adige. Sul caso la procura ha aperto un'inchiesta, il fratello spiega al piccolo che Marco è scivolato quando ormai con il gruppo di 7 amici erano vicini al rifugio dove avrebbero pernottato. L'edizione goriziana del piccolo mette in prima anche il caos negli aeroporti ieri con oltre 500 voli cancellati. Ronchi cancella 4 partenze, a Venezia ne saltano 25, scrive. Anche il Gazzettino di Pordenone è in evidenza sulla prima pagina dell'inserto oggi in edicola, l'impennato delle vendite in farmacia dei test fai da te per il Covid. Una grande fotonotizia ritrae poi il padiglione A dell'ospedale di Pordenone. Nella didascalia si dà conto di un sondaggio tra i lettori sulla sua possibile demolizione. Per ora pare prevalgano i no. Lavoratori in nero nascosti nei campi e nella ristorazione, il titolo nelle colonne di sinistra, che nel sommario riporta come nei primi 7 mesi di quest'anno siano emersi oltre 200 casi tra Udine e Pordenone. A sinistra un richiamo per il nuovo marchio della patata di Ovoledo e sotto, per la cronaca, il DASPO per una 48enne rumena che non può frequentare più 4 locali della città dove si era distinta per episodi di molestie. A piedi pagina per lo sport il calcio marcato del pordenonese che vorrebbe Camporese e Butic fare rotta verso sud, destinazione Cosenza e Regina. Parlando sempre dei neroverdi, il Messaggero Veneto ha invece la notizia del Pordenone in ritiro con un primo test nel Tarvisiano. Omaggio a Pio Riego Gambini, detto il Mazzini dell'Istria, oggi alle 11 al liceo Dante Alighieri di Trieste, che lo ricorda come l'eroe caduto in battaglia nel luglio 1915, poco dopo l'entrata in guerra dell'Italia. Sarà deposta una corona d'alloro davanti alla medaglia d'argento. Gambini è il simbolo dei volontari redenti che persero la vita nelle battaglie della Prima Guerra Mondiale. Al via oggi pomeriggio, dalle 16, la seconda edizione di Nano Valbruna, il Festival Verde del Friuli Venezia Giulia, che riunisce fino a sabato scienziati, giornalisti, artisti, divulgatori, imprenditori, docenti e molti giovani, tutti a Valbruna per parlare di innovazione, ambiente e sostenibilità. La direzione scientifica di questa edizione del Festival, che offre un concreto confronto scientifico ad alto livello per innescare progetti di rigenerazione sostenibile del territorio, è affidata al ricercatore di origine friulana Enrico Di Minin, docente all'Università di Helsinki, scienziato della conservazione, noto per i suoi studi sulle interazioni tra biosfera, società ed economia in rapporto alla sostenibilità ambientale. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del giornale radio. A seguire il consueto appuntamento con Vue Fevelin D che parlerà dell'abbandono degli animali. Alle 11.20 andrà in onda la seconda puntata di La Radio che Pedala, un programma di e con Chiara Meriani e Maddalena Lubini. La proposta di oggi è un tour alla scoperta di Pordenone. Alle 11.55 la seconda puntata di Fotoradiografie, un programma di e con Roberto Lionetti e Piero Pieri sul rapporto tra cinema e fotografia. I programmi regionali tornano poi alle 14. Era questa la nostra ultima notizia, collaborato in redazione Laura Serasini, per la parte tecnica Tommaso Vinoni e Viola Romanese. Da Nada Ciocchi e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di buona giornata, con l'appuntamento per la nostra edizione del GR alle 12.30. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.